L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, bentornati a una nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale ospitiamo, e molto volentieri, uno dei tanti cervelli in fuga italiani, almeno così adesso va di moda definirli. È Maria Sole Bianco, che è una giovane ricercatrice, una scienziata ambientale, che ha studiato in Italia, a Genova, per poi trasferirsi in Australia. Maria Sole, benvenuta. Grazie, è un piacere. Raccontaci un po' chi sei, come sei partita dall'Italia per arrivare fino all'Australia, dove poi adesso tu coordini un progetto molto importante, di cui ovviamente parliamo nel corso di questa puntata, ma cominciamo dall'ABC. Sono partita dall'Italia e ho deciso di fare un master, che equivale a una laurea specialistica in gestione delle aree protette in Australia. Il mio focus è sempre stato l'ambiente marino, quindi la mia specializzazione all'interno delle aree marine protette. In Australia, dopo una serie di anni passata a farla volontaria, adesso ricopro una posizione quale gestrice del... Giusto, si dice anche in italiano, so che ormai hai perso la confidenza con l'italiano, però... Gestrice della campagna per la protezione del Coral Sea, cioè detto in italiano Mar dei Coralli. Che è un mare mitologico di cui tanto abbiamo sentito parlare nella nostra infanzia, senz'altro. Sì. Quindi l'Australia è stata una scelta per una delusione italiana, mi dicevi prima, non essere riuscita a portare a termine un master che intendevi fare qui in Italia, alla quale per vari motivi non sei stata ammessa, quindi sei andata là e la ricerca è stata facile, immediata, veloce, com'è andata? Sì, il mio focus principale all'interno anche di una scelta di approfondimento di studi specialistici era all'interno delle aree marine protette, delle aree protette in generale, e nessun corso di studi italiano offriva questa possibilità, a parte questo master offerto dall'Unione Europea, al quale non sono riuscita a partecipare per non aver passato un test psicoattitudinale a causa della mia volontà dichiarata volontà di voler lavorare in un futuro all'interno del Ministero dell'Ambiente. Quindi ho preso un bello zero nel... 1-0. Senti, ci piacerebbe che adesso quella psicologa che ti ha valutato allora sapesse che invece qualcun altro ha apprezzato le tue capacità, tanto che hai appena ricevuto, no, questa bella notizia che riguarda la tua ammissione nel novero degli esperti mondiali per il tuo settore. Delle aree protette, sì, sono ufficialmente parte da ieri della World Commission on Protected Area, che è la commissione mondiale gestita dalla International Union Conservation of Nature, che è un ente delle Nazioni Unite, è l'UNESCO della natura per intenderci, e sono parte della commissione mondiale delle aree protette. Delle aree protette, a questo punto direi che è il caso di spiegare un pochino più nel dettaglio quello che è il tuo lavoro in questo momento, la campagna che porti avanti. Di che si tratta? Allora, si tratta di sviluppare un coinvolgimento della comunità della comunità di Cairns, che è la città australiana dove vivo, a nord-est dell'Australia, considerato il gateway per la Great Barrier Reef, per la quindi barriera corallina, verso la barriera corallina, perché è anche la città che è più vicina alla barriera corallina. Sviluppare questo coinvolgimento della comunità e educazione riguardante l'istituzione del Coral Sea come area marina protetta. Quindi questa unità, il Coral Sea unita alla Great Barrier Reef, e il Coral Sea sarà immediatamente dopo la Great Barrier Reef, rappresenterà l'area marina protetta più grande al mondo. La spettacolarità di questo ambiente è veramente incredibile, perché è un sistema di barriera corallina in mezzo all'oceano aperto, e io molte volte per descriverlo lo comparo a un oasi nel deserto. Quindi nel mezzo dell'oceano questa barriera corallina, questi ecosistemi coralligeni ospitano una diversità di vita incredibile. E tutto questo è anche permesso dal fatto che questa barriera si trova molto lontano dalla costa, quindi intorno ai 200-300 chilometri dalla costa, quindi ha subito pochissimo l'impatto umano, sia dal punto di vista di inquinamento, quindi quello che noi chiamiamo il runoff, lo spargimento di inquinanti da terra, sia per quanto riguarda la vera e propria pesca, quindi queste barriere coralline, essendo così lontane dalla costa, sono state pescate pochissimo. Quindi la nostra chiamata è di proteggerle finché sono così pristine. Questa area che tu dicevi sarà la più grande esistente al mondo, protetta, perché dici rappresenterà? Cioè che prospettive di tempo hai, di durata del tuo lavoro per arrivare a istituire davvero quest'area? Siamo alla fine del processo, quindi l'istituzione è prevista per luglio dell'anno prossimo, quindi luglio 2013. Bisogna dire che il Coral Sea è parte del National Network of Marine Reserve, quindi del network nazionale di aree protette, che come ben sappiamo è una raccomandazione che è stata fatta a livello internazionale, quindi per tutte le nazioni che hanno firmato la Convenzione per la diversità biologica. Quindi questa qui è una delle cose che le nazioni dovevano adempiere entro il 2012, quindi istituire questo network di Marine Reserve. Il Coral Sea è la parte nord-est dell'Australia, e l'area marina protetta parte di questo network. Questo network è passato attraverso vari periodi di consultazione pubblica, quindi un'altra bellezza dell'Australia è che il pubblico è direttamente partecipe e fa autore dell'istituzione dell'area protetta. E quindi si sentirà anche poi più impegnato nel proteggerla. Nel mantenimento, e quindi in questo modo arriviamo subito a un grande successo, perché la partecipazione pubblica è una cosa fondamentale per arrivare al successo di un'area protetta, l'effettivo, diciamo, management, l'effettiva gestione. E in Italia, proprio a questo proposito, spesso le aree protette, quali che siano, marine o boschive, sono vissute anche talvolta come un'imposizione. Cioè c'è chi è contento e va bene, ma ci sono anche tanti che all'interno dell'area magari si sentono privati, diciamo così, di qualcosa. Penso spesso anche ai parchi nazionali, sì, e così via. Il fatto di aver coinvolto il pubblico nell'instaurare quest'area ha reso le cose più facili in Australia? Certo, sicuramente. Anche perché poi la decisione finale è direttamente influenzata dagli outcome, da quello che viene raggiunto durante queste consultazioni pubbliche. Quindi se c'è una pressione forte anche dai pescatori per continuare a pescare in quell'area, viene comunque considerato nell'istituzione e nel disegno dell'area finale. Quindi ognuno può dire la sua. E questa qui è una cosa fondamentale. Io ho fatto una tesi per il mio master sulla gestione delle aree protette. Ho fatto proprio una comparazione tra la gestione delle aree protette in Australia e in Italia. E questa è proprio una cosa che è venuta fuori, questa percezione. Perché non c'è proprio nel processo di istituzione questo coinvolgimento fondamentale della comunità locale. Questo è proprio uno degli aspetti che manca in Italia. Abbiamo capito che la parte del coinvolgimento del pubblico è stata fondamentale. Da un punto di vista dell'istituzione del parco, quali difficoltà hai riscontrato magari? Ma dal punto di vista dell'istituzione del parco, a livello... Perché altrimenti ce l'avreste già, no? Quindi cioè, il procedimento è stato... È un processo e quindi affinché questo processo porti a una gestione effettiva e a una, diciamo, un disegno che possa far contente il maggior numero di persone possibile. Questo qui è un grandissimo lavoro, perché noi li chiamiamo stakeholders, ci sono varie personalità e interessi legati all'istituzione di un'area protetta in genere, che partono dalla conservazione, arrivano a livello governativo, partono dalle attività estrattive, quali la pesca, quali la possibile estrazione mineraria. Quindi ci sono tanti aspetti da mettere sul piatto della bilancia, e quindi penso che questa qui sia la cosa più difficile nell'istituzione di un'area protetta, il fatto di poter in qualche modo accontentare tutti e penso che, questa è una mia opinione personale, che sia molto meglio farlo nel processo di istituzione rispetto che dover confrontare questi problemi quando l'area protetta è stata istituita. A questo senza dubbio, perché poi dopo, quando la cosa è fatta, diventa tutto più difficile, insomma. Certo. E averli affrontati prima, quindi dando a ciascuno il suo spazio economico, di lavoro, e certo, di pesca per i pescatori e così via, di passaggio per i turisti, non lo so, insomma, qualunque cosa sia. Il turismo è molto importante, è molto importante, perché la Great Barrier Reef da sola in Australia è responsabile di un income di 5 miliardi di dollari. Un guadagno, quindi? All'anno. E 60.000 persone impiegate, quindi è un asset naturale, un valore naturale che è valutato tantissimo in quanto naturale, quindi per la sua bellezza intrinseca. Questa è una cosa straordinaria che porta milioni di turisti a visitarla ogni anno, e la stessa cosa vale per il Coral Sea, forse in maniera diversa, perché proprio ci troviamo di fronte, la gente la definisce quello che era la Great Barrier Reef 20 anni fa, quindi proprio questa diversità di colori specifica, questa abbondanza di grandi pelagi, quindi di tonni, di marlin, di pesce spada, di squali, quindi tutte queste specie che nel mondo purtroppo in questo momento sono overfished, sovrappescate. Certo, ma ti volevo chiedere proprio questo, in che condizioni versa quest'area? Buone? Buonissime. Sì. Per il momento sono buonissime, non si sa mai cosa potrà essere nel futuro, quindi l'istituzione di quest'area marina protetta è anche un modo per poter proteggere questo dono che abbiamo ancora nel mondo di ecosistema corallino in uno stato pristine. Come si dice pristine in italiano? Non lo so neanche io. intatto, pochissimo impattato, ecco. Quindi è praticamente intatto e... A Keynes, tra l'altro, nella mia città, c'è stato un simposio internazionale sullo stato delle barriere coralline, e considerando il climate change, quindi il cambiamento climatico, e l'ocean acidification, quindi l'acidificazione dell'oceano, il sistema coralligeno, l'ecosistema coralligeno è un ecosistema che è a forte rischio, perché l'acidificazione dell'oceano va a impattare direttamente il processo di formazione del carbonato di calcio e quindi dello scheletro del corallo. E il climate change influisce sulla temperatura, e il corallo è molto sensibile al cambio della temperatura e tutto il resto. Quindi, visto che comunque non possiamo agire a livello globale, però a livello locale dobbiamo cercare di diminuire gli impatti possibili, quali la pesca, quali la pollution, quindi l'inquinamento, per poter aumentare l'abilità dell'ecosistema di combattere contro questi stress ambientali che purtroppo sono difficili da gestire a livello locale. Cioè, certo, ognuno può fare il suo, però diciamo un problema che sta avvenendo mondialmente e quindi a livello globale, e noi dobbiamo agire localmente per cercare di mantenere questo valore ambientale grandissimo di quest'area. Senti, ti chiedo un'ultima cosa prima di chiudere questa prima parte dell'altro pianeta, ed è la domanda che il mio collega che si occupa, diciamo così, di cervelli in fuga fa a tutti, Sergio Nava, chiede sempre: e torneresti mai in Italia? Sicuramente subito. Sì. Sicuramente sì. Il mio obiettivo è quello di tornare in Italia. Sto costruendomi una carriera in modo da tornare qua in Italia e essere riconosciuta pienamente per il mio valore e per la possibile contribuzione che posso dare, quindi non essere più sì, scartata per avere un'ambizione. Per dire che vorrei lavorare nel Ministero dell'Ambiente, ecco. E l'Italia è un paese che dal punto di vista paesaggistico è una perla nel mondo, io la considero. E anche marina, immagino, no? Stiamo parlando anche di questo. Anche marina, ma proprio come diversità paesaggistica, e tutto è contornato da un patrimonio artistico e culturale che è invidiato dal resto del mondo, se solo riuscissimo a valorizzare un po' di più questo patrimonio, tutti gli italiani starebbero meglio. Grazie a Maria Sole Bianco per essere stata con noi. L'altro pianeta. Buon pomeriggio di nuovo da Laura Bettini. In questa seconda parte dell'altro pianeta continueremo a parlare di mari, perché se anche in Australia si sta lavorando alla creazione della più grande riserva del mondo, ne abbiamo parlato a lungo nella prima parte del programma con Maria Sole Bianco, che guida la campagna Protect Our Coral Sea, cioè proteggiamo il nostro mar dei coralli, ecco, la situazione non è rose e fiori. Se ne è discusso tra l'altro anche all'ultimo Salone del Gusto e Terra Madre di Torino, dove Paolo Piacenza ha intervistato Silvio Greco, che è responsabile ambiente di Slow Food Italia e presidente del comitato scientifico di Slow Fish, quindi specifica sezione dedicata alla pesca. Quali sono i maggiori mali di cui soffrono gli ecosistemi marini? Sicuramente l'overfishing, quindi la sovrappesca, la contaminazione, quindi tutto quello che è legato all'inquinamento, e praticamente la gestione integrata dei rifiuti, perché a mare arriva di tutto, addirittura abbiamo delle isole grandi come mezza Europa che sono piene di isole di plastica in pieno oceano. Quindi diciamo questi qua sono le due grandi categorie, inquinamento e overfishing, e sovrappesca. La soluzione sostenuta anche dai recenti programmi europei dell'acquacultura non vi convince, perché? Ma non ci convince l'acquacoltura di pesci, di predatori, di pesci carnivori che hanno necessità di farine di pesce, di pesce selvatico. Quindi noi per fare un chilo di pesce allevato ammazziamo 22 kg di pesce selvatico. Ci convince l'acquacultura delle specie erbivore, che però non sono saporitissime. Ci convince l'acquacultura dei bivalvi, quindi dei grandi filtratori, cozze, vongole, fasolari, ostriche, ecco, questo ci convince. L'acquacultura dei pesci carnivori onestamente ci lascia molto perplessi. La consapevolezza del mondo dei pescatori qual è? Che cosa si vede di positivo e che cosa resta ancora da correggere? Resta da correggere il fatto che i pescatori, e ormai la maggior parte dei pescatori lo sanno perché la sera tornano con le reti vuote, il pesce è in forte riduzione. Quindi o noi facciamo dei piani seri che devono essere però internazionali, noi non possiamo pensare di gestire la risorsa come ogni singolo Stato gestisce la risorsa, anche perché le risorse marine sono condivise, non conoscono i confini geografici, quindi è necessaria una governance che superi gli egoismi nazionali. Sedma Cinco dell'Università del Rhode Island parlava di un modello anche di appropriazione delle quote individuali che fa pensare a una sorta di colonizzazione, no? Delle quote di pesca dei singoli produttori, che poi non hanno le risorse, le capacità di essere degli imprenditori e quindi sono nelle mani delle grandi organizzazioni. Questo è un rischio perché si sta passando realmente da uno stato di nullius res sul mare a una strisciante privatizzazione che noi ovviamente combattiamo, perché non è immaginabile avere tipo delle quote che tu ti compri le quote e diventi il padrone, perché i pesci sono di tutti, i pesci sono un bene comune, non sono come le foreste, sono come l'aria, non sono come i mammiferi marini, sono come le balene, non sono come le stelle del firmamento, non si possono comprare le stelle del firmamento. Sempre al Salone del Gusto e Terra Madre, Paolo Piacenza ha scovato anche una curiosità che vogliamo portare alla vostra conoscenza. Il progetto This Fish, ideato dal programma Pesca e Affari Marini di Ecotrust Canada, che certifica la filiera del pesce utilizzando i social network, quindi parliamo di Facebook in particolare. Tasha Sutcliffe è la vicepresidente di Ecotrust Canada. It's a seafood traceability system. È un sistema di tracciamento dei prodotti della pesca che è nato non solo per rispettare i regolamenti esistenti per ragioni sanitarie e di sicurezza, ma anche per fornire agli interessati tutte le informazioni che possono desiderare per compiere scelte consapevoli. Possono ad esempio connettersi con i pescatori e gli allevatori per sapere come e quando il pesce è stato pescato. L'abbiamo ribattezzato Fishbook per assonanza con Facebook. Pescatori e allevatori hanno un profilo con tutte le informazioni informazioni, così quando compri del pesce puoi risalire al produttore, connetterti con lui e scambiare messaggi. C'è proprio un sistema di messaggistica, così le persone possono sfruttare le nuove tecnologie per comunicare come non potevano fare in passato. Non tutti potevamo andare al molo a vedere il rientro dei pescherecci. Ora la tecnologia ci consente anche questo. E dopo questo spaccato sul mondo degli oceani e della pesca è arrivato il momento della nostra rubrica Articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana che dice, lo ripassiamo bene, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno da Marco Carminati, oggi parliamo di un tema che abbiamo già trattato in questa trasmissione, cioè il privato aperto al pubblico, quando istituzioni private aprono i loro tesori per il beneficio del pubblico. E in questi giorni a Milano c'è stato un avvenimento molto importante, la collezione di arte contemporanea di Banca Intesa, quindi di un soggetto privato, è diventata un museo pubblico. Parliamo di questo importante avvenimento culturale con uno degli attori di questa vicenda, che è il professor Francesco Tedeschi, associato di storia dell'arte contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Ecco, lei ha avuto un incarico piuttosto importante e anche impegnativo dal punto di vista culturale, cioè quello di trasformare una collezione privata, in questo caso la collezione di Banca Intesa, in un museo pubblico. Ecco, la prima cosa che le chiedo è: perché una banca deve aprire un museo? Che cosa significa questa operazione? L'operazione scaturisce dalla consapevolezza che la ricchezza e la quantità delle raccolte acquisite da Intesa San Paolo attraverso le molteplici fusioni di banche che costituiscono il gruppo ha portato ad avere un complesso già in parte anche noto, perché alcune delle maggiori opere erano state esposte in esposizioni, in mostre importanti in Italia e all'estero, e che fanno parte in un certo senso di una dimensione pubblica nel momento stesso in cui costituiscono un patrimonio visivo della cultura del Novecento. Oltre a questo, l'intenzione è stata di dare al pubblico la visione di quel percorso che effettivamente già è presente nella collezione nel momento stesso in cui è stata concepita, cioè la collezione è stata concepita secondo un criterio storico tematico di grande attenzione, quindi non semplicemente con attenzioni di tipo economico e gestionale. Ecco, lei è stato chiamato e coinvolto naturalmente come specialista e studioso di questo settore e ha chiaramente messo mano a un patrimonio enorme. Ecco, che cosa si è trovato davanti quando l'hanno invitata a occuparsi di questa collezione? Dunque, intanto posso distinguere due momenti, una fase che è iniziata alcuni anni fa relativa alla presa in cura del patrimonio per una catalogazione scientifica. Sì, quindi avete cominciato. Un archivio immenso da consultare, su cui creare dei percorsi per una catalogazione ragionata che è in corso, che sta per giungere alla sua pubblicazione. Certo. Seconda fase invece nasce poco più di un anno fa, quando si è pensato, grazie alla spinta che per prima il professor Bazzoli ha dato a tutta l'operazione nel momento in cui si stava completando la presentazione dell'Ottocento, di realizzare anche un percorso sul Novecento negli spazi che sarebbero stati destinati a questo e che sono stati aperti in questi giorni. Ecco. A quel punto, sulla base della conoscenza dei materiali che sono stati acquisiti nel corso del tempo, ho cominciato a riflettere sulla elaborazione di un percorso che fosse legato sia alle presenze più significative a livello di opere e di autori, sia all'intreccio e agli intrecci possibili per un percorso che serva a conoscere non solo i capolavori di una banca, ma a conoscere un percorso all'interno dell'arte del Novecento, a conoscere l'arte contemporanea nelle sue molteplici figure e forme. Certo, quindi un'operazione nata appunto come ricerca, straordinaria ricerca su un nucleo molto importante di opere, che si è trasformata in un museo sostanzialmente. Ecco, dove possiamo venirla a ammirare? Sì, intanto museo e collezione appunto si piegano di fronte all'idea di dare una lettura come quella del concetto cantiere, che non sia fissa e stabile. Okay, e intenzione di tutti che non sia museo nel senso tradizionale del termine, certo. Deve essere un luogo anche piacevole proprio. Ecco, che si rinnova, che si presenta. Ma certo. Deve essere uno spazio dove ci si confronta con le cose. Il palazzo è il palazzo che progettò Beltrami per la sede storica della Banca Commerciale Italiana all'inizio del Novecento, che venne realizzato completato nel 1911, tra l'altro l'anno in cui i futuristi Boccioni metteva al centro proprio un cantiere, la città che sale, per il suo quadro maggiore, e quindi l'anno in cui il futurismo si manifesta nella pittura e nell'arte come traduzione delle idee di Marinetti. Pertanto vi è anche una corrispondenza per tanti motivi con il concetto di fondo e con il luogo. Quindi l'appuntamento insomma per tutti, anche perché questo museo è aperto gratuitamente, questo luogo è proprio nel cuore di Milano, in Piazza della Scala, bellissimo palazzo che prospetta su Piazza della Scala, dentro il quale potremo vedere e toccare con mano che cos'è stata l'arte della seconda metà del Novecento italiano, e lo potremo vedere in fieri, perché questi allestimenti cambieranno, verranno arricchiti, dando alle persone opportunità sempre nuove di venire in questo luogo. Io ringrazio moltissimo il professor Tedeschi, grazie professore. Grazie. Ecco. Grazie a tutti e buona giornata. Ed è tutto per questa puntata dell'Altro Pianeta. Da Laura Bettini un ringraziamento anche a Laura Faggina e Guido Scotti in redazione. L'appuntamento è rinnovato per la prossima settimana alla stessa ora. Per scriverci, l'altropianeta@radio24.it.